Chi è che introduce Sandro Malossini? Perché magari ci sono alcuni che non sanno chi sia. Sandro Malossini deve introdurre se stesso, ma fondamentalmente è il patron artistico della regione, posso dire così? Il curatore rosa. Diciamo che negli ultimi anni, 4-5 anni, collaboro con l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nella programmazione delle mostre d'arte, degli eventi, e curo la collezione d'arte della medesima Assemblea. Ma soprattutto opero al di là della Regione, anche in altri comuni, in altri spazi pubblici, cercando di promuovere quello che è la mia idea di testimonianza dell'arte nel territorio. Come è cominciato questo tuo rapporto con la Regione? Io avevo questa curiosità, e questa è una cosa che non conosco. Molto prima ti conoscevo invece come giornalista, perché tu ti sei occupato per anni anche di giornalista, hai scritto per... Ho iniziato molto giovane per Vogue Italia, una rivista che mi aveva permesso di sperimentare le prime recensioni d'arte, di fare l'inviato da Parigi per un breve periodo. Poi sono passato a Sipario, che era una rivista storica di teatro nella quale avevo la titolarità della rubrica d'arte, e ho proseguito con delle collaborazioni in varie testate giornalistiche e in quotidiani nazionali, sempre occupandomi di arte. Ma per tornare alla Regione e all'Assemblea Legislativa, è casuale questo incontro che c'è stato, perché l'Assemblea Legislativa aveva chiesto a Mario Nanni, artista col quale io avevo un rapporto di amicizia quasi fraterna, di organizzare una mostra in Assemblea. Ma l'Assemblea Legislativa non aveva mai organizzato mostre d'arte, per cui c'è stato un po' un problema di allestimento, di cura del catalogo, di tutto quello che comporta una mostra. Mario Nanni mi ha indicato alla Regione come persona che poteva collaborare. Da quel momento lì loro hanno cominciato pian piano, con un'altra mostra ancora, a chiedermi di organizzare per loro e di curare la collezione. Per cui da un rapporto quasi casuale, direi, è nata questa collaborazione che è diventata fissa, nel senso che ormai quasi quotidianamente sono impegnato in attività con l'Assemblea Legislativa, sempre per quanto riguarda l'arte contemporanea. Perché vedi Stefano, Sandro sta facendo quello che noi ci auguriamo che qualcuno al mondo faccia per tutti e sempre, cioè cercare di non perdere le fila della memoria di quello che succede a livello artistico, perché noi contemporaneisti siamo molto concentrati su gli artisti emergenti, quello che succede ora, eccetera eccetera, però poi se non c'è qualcuno che si preoccupa anche di raccogliere, ricordare e trasmettere al futuro quello che succede oggi, dopo rimangono tutti casi isolati, episodici e sporadici, e anche purtroppo, devo dire, indipendentemente dalla volontà dei singoli artisti, rischiano di diventare tutte cose poco significative, perché se no si diventa un discorso, e questo mi sembra un po' che sia l'intenzione diciamo che anima l'intervento e la cura di Sandro Malossini. Assolutamente, e fra l'altro appunto lui, cioè tu Sandro lo fai a tutto tondo indipendentemente, cioè lo fai sia all'interno della Regione che anche con altre collaborazioni, come abbiamo visto con, quando è che ho intervistato Paolo Gualandi, che... Ah certo, è vero, non ricordavo anche questo, che anche lui nel suo piccolo cerca di mantenere la memoria di quella che è stata più o meno la storia dell'arte bolognese, più o meno, no? Ma ecco, io vi vorrei raccontare questa cosa, da dove è nato questo mio interesse particolare negli ultimi anni, al di là di una frequentazione di amicizia con molti artisti, ma nel 2015 il direttore della Galleria d'Arte Moderna di Viadana mi chiese di organizzare una mostra sull'arte bolognese. Detto così, l'arte bolognese poteva crearmi qualche problema, perché è talmente vasta che bisognava dare un taglio, così, e mi è venuto in mente di riproporre una mostra che era stata organizzata nel 1975 alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che era stata inaugurata da pochi mesi, mostra curata da Giovanni Accame, che si chiamava Pittura Museo Città e presentava 12 artisti che lavoravano nell'ambito di Palazzo Bentivoglio. Palazzo Bentivoglio a Bologna è stato per anni la sede degli studi di tantissimi artisti, basta ricordare Vasco Bendini, per Paolo Calcolari, Aldo Borgonzoni, Aldo Gargano, cioè fino ai più giovani. Questa generazione che nel 1975 operava all'interno di Palazzo Bentivoglio viene proposta alla Galleria d'Arte Moderna, per cui io penso e organizzo nuovamente questa mostra, la ripropongo con opere sempre degli anni 70, che erano quelle coeva la mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, ma integrata con 4-5 lavori a testa realizzati negli ultimi anni. Per cui da lì mi nasce questo interesse, questo desiderio di creare degli eventi che siano testimonianza di quello che gli artisti che hanno iniziato a operare negli anni 70-80 hanno poi proseguito negli anni successivi fino al 2000-2010, ecco. Sì, è molto interessante tutto questo lavoro, ma ci saranno sicuramente anche tanti, diciamo, tanti aneddoti, tanti ricordi, ma diciamo, i protagonisti di queste mostre e di queste tue anche conoscenze e frequentazioni personali, come si vivono il rapporto invece con quello che viene fatto oggi? Seguono, cioè, ci seguono ancora, sì. Ci conoscono? No, perché... Ma, no, indubbiamente ci sono alcuni reciproca, perché no, è vero, no, indubbiamente alcuni artisti, adesso non vorrei fare dei nomi, citarne, ma vi seguono, conoscono quello che è, quali che sono le ricerche contemporanee. Questo è dovuto anche perché al fatto che magari molti di loro sono stati anche docenti o al liceo artistico o all'Accademia di Belle Arti, per cui hanno avuto come studenti quelli che sono adesso i giovani artisti. Altri invece no, assolutamente, ci sono artisti che sono molto legati ancora a quella che è stata la loro formazione, il loro percorso, e si trovano quasi chiusi in una scatola dalla quale non desiderano, non vogliono uscire, proprio per scelte di vita, per scelte artistiche. Io invece vi faccio uscire da questa scatola mettendo uno stacco musicale che sono... Mi è arrivato da questi Boom Rush Promotions, un ufficio stampa tedesco, che ci hanno spedito Circle Back, che è una canzone di Catch a Fire. Vai. Can I hit you in the morning? Baby girl, I swear. You know I got my hands tied up at work, I ain't walking that plank. You call me after midnight, what the hell you think? Send me your location, I won't take long, I still owe you that drink, yeah. When I push, you pull me through, when you fall, I catch it too. Especially when you do them things you do. And I can't stop the feels on you, of the fire that burns for you. I wanna go round two, go round two. Then I'll do it like you, do it like you. So can we circle back one more time? Circle back one more time. And the way we groove, way we groove. How we stick and move, stick and move. So can we circle back one more time? Circle back one more time. I hope it's not too late, cause you know I've been waiting for this hugging and loving today. So tell me, are you ready now? Stop with all these games. Soon as I put my love on you, forever you stay. When I push, you pull me through. When you fall, I catch it too. Especially when you do them things you do. Mission to make a way, girl, I follow. make me wanna run it back one more round. I tell you one thing, it's all or nothing. So can we circle back again tonight? Better believe it when I say I wanna go round two. Di solito ci mandano dell'hardcore reggae, invece stavolta quasi un pezzo solo. Ma non è vero, ma non è vero che ci mandano della... siamo sempre su queste note sound, sweet sound post-punk. Eh beh, cioè, di lunedì sera cosa dobbiamo fare? Non è che... Non lo so, se dobbiamo andare a letto presto perché siamo all'inizio della settimana lavorativa, tutti non possiamo agitarci troppo. Infatti. E siamo ancora qui con Sandro Malossini, che appunto ci raccontava degli anni 70 a Bologna. Ma dunque tu li hai vissuti gli anni 70 a Bologna? Tu sei bolognese, da dove vieni tu? Sì, io sono bolognese. Gli anni 70 per me sono stati un po' molto, sono stati importanti in vari sensi. Primo perché la seconda metà degli anni 70 ho fatto l'università, per cui prima 3 anni di lettere, poi sono passato al DAMS, ma sono anche gli anni in cui ho cominciato a scrivere, a occuparmi d'arte, e sul finire degli anni 70 ho incominciato a pensare che potevo aprire una mia galleria d'arte, cosa che ho fatto nei primi anni 80, credo con un discreto successo, senz'altro di interesse a livello nazionale, esperienza che però è durata 5 anni, dopodiché ho provato a Milano in società con altre persone per un anno, ma diventava abbastanza problematico per me andare avanti e indietro da Bologna a Milano perché non volevo andare a abitare a Milano. E alla fine poi ho lasciato e sono tornato a occuparmi prevalentemente di giornalismo. Nel frattempo sono stato negli Stati Uniti, dove ho organizzato alcune mostre a St. Louis con l'intenzione di rimanere là, poi non sono rimasto neanche negli Stati Uniti. Cioè non ti andava bene Milano, ma volevi andare negli States. Bologna. Alla fine sono tornato nuovamente a Bologna e ho continuato, meno male, sempre a occuparmi d'arte contemporanea, organizzando mostre, eventi, incontri, in maniera non così continuativa come sto facendo negli ultimi anni, ma con una presenza, secondo me, abbastanza significativa comunque. Ma quindi tu sei anche collezionista tu stesso? Certo, io racconto sempre che all'età di 14 anni, con la paghetta che mi davano i miei genitori, ho comprato la mia prima opera d'arte pagandola settimanalmente, perché ogni volta che ricevevo i soldi della paghetta andavo da questo giovane artista, che poi è diventato un mio carissimo amico, a pagargli la quota dell'acquisto. Cavoli, a 14 anni, incredibile. E chi era l'artista? Dobbiamo saperlo subito. Eh sì, assolutamente. Beh, adesso non so se lo conoscete, comunque Roberto Rizzoli. Ah certo, sì. Che a quei tempi lì, credo a 19 anni, perché ne ho 5 meno di lui, insegnava il primo anno che insegnava al liceo artistico. Tra l'altro un grande artista, Bebo. No, sì, secondo me, esatto, proprio vero, secondo me sì. No, anch'io devo dire che apprezzo tantissimo il suo lavoro. Mi fa molto il piacere, guarda. È stato un tuo insegnante, Stefano? No, non è stato mio insegnante, però me lo ricordo nei corridoi. Anzi, fra l'altro mi sa che gli studenti non piacesse tanto agli studenti, se non ricordo male. Forse non avevo un bellissimo carattere, però a parte Che cosa insegnava? Perché io non sono migrata a Bologna dopo gli studi, cioè ho fatto l'accademia qua, ma tutto quello prima l'ho fatto altrove. credo che insegnasse disegno, figura. Figura disegnata, se non sbaglio, sì, sì, sì. Fantastico. E invece io ho un grandissimo amore per uno degli artisti che tu hai seguito e che secondo me è stato veramente un grande dell'arte bolognese, che è stato il mio insegnante di pittura all'Accademia, Riccardo Camoni. E sono molto contenta che, di avere visto che negli ultimi anni, dopo la mostra che fu organizzata da Renato Barilli al Museo Archeologico, qualcosina di più si riesce a vedere del suo lavoro, che è stato un lavoro molto raffinato. Tu lo conoscevi anche personalmente? Sì, allora io conosco meglio sua sorella Barbara, con la quale abbiamo trovato un rapporto proprio per cercare di valorizzare il lavoro di Riccardo. Io Riccardo l'avevo conosciuto molti anni prima che purtroppo scomparisse, alla Galleria G7, dove lui aveva tenuto una mostra quando il suo lavoro era ancora in una fase, direi, astratta, ma con questi elementi, con questi solidi che invadevano lo spazio. E successivamente, negli ultimi tempi, appunto con Barbara ci siamo rivisti, ne abbiamo parlato, ha donato un'opera alla collezione dell'Assemblea Legislativa ed è esposta in maniera permanente negli spazi della regione. Che cos'è che è esposto? Io non ho avuto il piacere di vederla. Uno entra nella zona proprio all'ingresso della in fiera. E allora, salendo, è nell'ammezzato dove c'è la sala del consiglio e nello spazio che attualmente ospita una mostra collettiva dedicata alle artiste, ad alcune artiste del nostro territorio, una mostra che si intitola Il femminile nell'arte, poetiche, tecniche e materiali nella ricerca contemporanea in Emilia-Romagna. Accanto a questa mostra ci sono dei piccoli spazi dove vengono esposte in maniera permanente alcune opere della collezione e c'è in uno di questi spazi anche l'opera di Riccardo Camoni accanto a un lavoro di Silvano Chinni, che è stato docente di scenografia all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e di Enrico Mulassani, invece docente a Brera. E questi sono spazi che si possono visitare normalmente al di là di, diciamo, delle mostre temporanee che tu curi, o bisogna? Sì, perché sono luoghi aperti al pubblico, no? Sono luoghi aperti al pubblico, anzi a noi fa molto piacere che la collezione venga conosciuta dal pubblico più ampio, anche perché è una collezione prettamente dedicata al territorio, per cui ad artisti che operano o hanno operato in territorio regionale. Perché poi fondamentalmente la missione che l'Assemblea si è data in questi anni è stata quella di valorizzare artisti del territorio per cercare di portarli a una conoscenza che non fosse più legata ad un ambito proprio regionale, ma più nazionale, per cui l'Assemblea, che ha questa potenzialità di farsi vedere, di farsi conoscere a livello nazionale, propone anche i propri artisti. Ecco, adesso io se posso ti faccio una domanda un po' così. Io invece ti dico che non puoi, perché Ci vuole un altro pezzo di musica. No, perché dobbiamo andare in pubblicità, ma accidenti. Vabbè, allora dopo la pubblicità, così magari dico la domanda scomoda sottotraccia e Sandro Malossini si prepara la risposta. Esatto. Ritorneremo immediatamente, no, non cambiate canale, come dicono in televisione. Coxo spaziale. Yeah. Hey John, this is Julie, also known as Ex Posto Facto, giving you a call. I figure you're probably working. I of course work from 4 to 10 again tonight and tomorrow night. So maybe our hours don't match up very well. The answer to what you should do with Fluxus Flux is whatever you want, but of course I'm happy to see them again and I recirculate them, or you can recirculate them, or, you know, I got them, a bunch of them back as a baggie full of ashes, and you could kind of tell they were Fluxus Flux once. Anyway, there is no wrong way to use a Fluxus I did pay for some fonts from Chank's Diesel. They sell fonts on, I don't know if they still do, that was a long time ago, but they took 10 of them for, I think, 10 different little fonts that were very cool. Maybe we'll talk person to person soon. Eccoci qua, che siamo tornati. Oh, è partita anche un pezzo di musica che non doveva partire, ma va bene lo stesso. Siamo di nuovo qua con Sandro Malossini che ci stava raccontando, anzi con Chiara che ci stava per fare una domanda scomoda a Sandro. La domanda scomoda, però poi siccome tutto era registrato, in realtà non l'ho anticipata a Sandro, che quindi casca dalle nuvole. No, io volevo sapere, perché stiamo parlando di un luogo comunque istituzionale, diciamo, anche se istituzionale non deputato all'arte, però certamente istituzionale. E com'è il rapporto dell'Assemblea Legislativa con le altre istituzioni che invece sono più dedicate all'arte contemporanea, quindi il Mambo a livello locale, ma l'istituzione Bologna Musei, e però pensavo anche più in generale magari i rapporti col MIBACT, no? Che a livello nazionale possono effettivamente decidere le politiche che poi in qualche senso arrivano a sostenere o non sostenere questo intento di partenza. Guarda, senza voler entrare in polemica, perché non mi compete, poi non desidero che sia una risposta polemica alla mia, posso solamente dire che prima che arrivassi io in regione a collaborare con l'Assemblea Legislativa, il gabinetto di presidenza aveva preso dei contatti, numerosi contatti, con l'allora IBC, con il Mambo, con successivamente l'istituzione Bologna Musei, per avere una collaborazione nel proporre, creare eventi, insomma essere presenti in qualche maniera nel panorama artistico bolognese. Non c'è stato nessun tipo di risposta, anzi ci sono stati proprio dei dinieghi totali, a parte il Mambo che col quale è stato poi instaurato un rapporto e una collaborazione annua, durante la quale loro portano dei giovani, non so se studenti, comunque portano delle persone a visitare l'Assemblea Legislativa, perché ricordiamoci che l'Assemblea Legislativa ha sede in una delle torri progettate da Kenzo Tange, per cui già come struttura architettonica è di notevole interesse. In esatto. Più, tutti gli arredi furono commissionati a Simon Gavina, per cui troviamo delle cose incredibili, dei tavoli di Carlo Scarpa, ormai scomparsi dal mercato, sono oggetti da museo, ma altri ambienti all'interno dell'assemblea fatti da grandi architetti come Zanuso, per esempio. Per cui questa collaborazione col Mambo permette anche a chi viene in regione di visitare, oltre alla collezione permanente, anche gli ambienti progettati da questi grandi architetti ed arredati da altrettanti architetti famosi. Sì, perché a parte voglio dire quello che già tu sottolinei, cioè la rilevanza di questi luoghi che comunque noi abbiamo e che a volte non sono, come dire, forse si sa che ci sono, però poi all'atto pratico non entrano in un tessuto di pratiche, abitudini, relazioni con l'arte, no? Che invece sono quelli che rendono vivi e possibili e fertili i discorsi nel tempo. Però io non so tu Stefano, ma io rimango sempre abbastanza basita, perché mi faccio l'impressione da esterna che a livello istituzionale debba esserci una maggiore scorrevolezza e fluidità di discorso, come se fosse possibile, no? Invece poi alla fine non è così, e forse è lì che si inceppa tutto il meccanismo. È lì che l'Italia non fa sistema, su questo non c'è dubbio. Il problema del sistema artistico italiano è proprio il non fare sistema, la non volontà di fare sistema, cosa che invece all'estero succede normalmente. Poi adesso parliamo dell'estero, però parliamo soprattutto di paesi paesi anglosassoni dove le cose sono molto più lineari che da noi, cioè su questo non c'è dubbio. Qui il dramma è proprio quello, che ci sono, no, invidie, piccole antipatie, eccetera, eccetera, che fanno sì che molto spesso, appunto, grandi istituzioni che potrebbero magari unirsi per un fine comune non lo fanno. Tu cosa ne pensi, Sandro? Guarda, io ti posso portare degli esempi dicendoti che, per esempio, la collaborazione con numerosi comuni dell'Interland bolognese, ma non solo, c'è ed è costante, nel senso che io, che organizzo mostre per il comune di Monzuno, di Marina di Ravenna, di Longiano, di Crespellano Valsamoggia, c'è una grande collaborazione con la regione, con l'assemblea legislativa, e questo devo dire che mi gratifica anche molto, nel poter organizzare mostre per loro. La collaborazione non c'è con le istituzioni bolognesi, soprattutto. Addirittura tu considera che la collezione d'arte è la collezione d'arte dell'assemblea legislativa, che è diversa da quella della giunta, cioè convivono nello stesso palazzo due enti che hanno due collezioni d'arte diverse, due gestioni diverse, e non trovano un momento di comunità. Sì, questo abbiamo è abbastanza paradossale. Prego? È abbastanza paradossale questa cosa. Sì, certo. È abbastanza paradossale. No, abbiamo organizzato delle mostre, vorrei citarne una, tanto per citare, dedicata alle tutte le opere che Ilario Rossi ha esposto nelle varie partecipazioni alla Biennale di Venezia. Per cui, oltre ad essere stata una ricerca particolarmente interessante, però considerate opere dagli anni 40 fino al 64, quando partecipa con una sala personale alla Biennale di Venezia, bene, abbiamo chiesto delle opere in prestito al Mambo e ad altre istituzioni locali, non le abbiamo avute. Le abbiamo avute da tutta Italia, addirittura dalla Biennale di Venezia, ma non dalle istituzioni bolognesi. È chiaro che ci sono dei problemi politici. No, è incredibile. Poi ci saranno delle motivazioni, delle giustificazioni, tutto quello che volete, però rimane un dato di fatto che le opere presenti a Bologna non siamo riusciti ad averle. Cioè, è evidente che ci sono dei problemi di tipo politico di qualche tipo, sicuramente, non c'è dubbio. Non lo so, io non so immaginare, non riesco veramente ad accedere alla comprensione di questa del perché di queste situazioni, perché alla fine veramente penso che sì, se si ragiona solo sull'attimo, no, dopo poi non resta niente per nessuno. Sì. Però insomma, speriamo che invece insistere, perché a volte l'insistenza è anche importante, no? E io sono convinto che queste problematiche prima o poi verranno risolte con la trasparenza, nel senso che quando tutti sapranno tutto, dopo diventa quasi ovvio che bisognerà collaborare in qualche modo. Ci stiamo arrivando pian piano. Esatto, anch'io sono convinto che ci stiamo arrivando. Adesso invece vi faccio ascoltare un pezzo di musica di Stefano Panunzi, che il cui album sta per uscire il 26 marzo. L'album si chiama Beyond the Illusion, lui è un tastierista, musicista romano che appunto è al suo terzo album, e adesso ci andiamo ad ascoltare una traccia su cui dopo fra un po' possiamo anche parlarci sopra, perché è tutta musicale, che si chiama The Bench. Dice il comunicato stampa, Beyond the Illusion è un collage lunatico di influenze progressive, un'opera che affonda le sue radici tra l'art rock e l'ambient jazz, il cinematic soundscape e l'alternative rock. Questo The Bench invece è dedicato al compianto amico di penna Mick Karn dei Japan, che suonò nei primi due album solisti di Panunzi. E così. Stefano. Dicevi scusa perché ti avevo abbassato, Chiara. Sì, che questo incontra molto il mio consenso musicale. Ah, ecco, per una volta ti ho fatto ascoltare qualcosa che ti piace. Grazie. Oh, figuriamoci. Allora, dov'è il mixer? Che così lo abbasso un attimo e possiamo continuare intanto che ce lo ascoltiamo di sottofondo. Intanto io ho realizzato come al solito gli appunti di Coxo Spaziale che verranno raccolti a fine anno in una pubblicazione di un editore innominabile e che potranno essere acquistati ed utilizzati come diario scolastico 2021-2022. E sono sicuro che sarà un successone, ne venderemo almeno 8. 3-4 copie. Bene, Oscar Moroni, prenota subito la tua perché sai che noi poi esauriamo in fretta perché ne stamperemo 10 in tutto. Esatto. No, torniamo a Sandro. E dunque, a parte questi problemi di natura politica, cos'altro fai oltre a curare mostre su mostre quasi ininterrottamente? Guarda, ti assicuro che curare mostre ininterrottamente è un impegno che mi assorbe in maniera quasi totale, nel senso che anche adesso, cioè, sai, le mostre vanno programmate e organizzate con un certo anticipo. Tu considera che in regione più o meno facciamo una mostra ogni mese, per cui c'è poco da respirare. Contemporaneamente seguo la programmazione di parte degli eventi culturali nel comune di Monzuno, sto preparando delle mostre per Via Dana, per la stagione estiva a Marina di Ravenna, dove seguo due spazi, uno è il Museo delle Attività Subacquee e l'altra è la Galleria del Comune. Per cui una serie di mostre, di eventi che tante volte anche si sovrappongono. Cioè sei una macchina da guerra praticamente. Non so se sono una macchina da guerra, faccio un lavoro che mi piace fondamentalmente, dove subisco delle critiche, ma le critiche sono sempre costruttive secondo me. Posso avere anche dei ripensamenti sulle scelte che faccio, ma vorrei essere preciso su una cosa, cioè io non sono un critico d'arte, per cui le mie scelte tendono a essere scelte che devono testimoniare qualcosa che è avvenuto o che avviene. Per cui non sempre le scelte mi trovano concorde negli artisti che presento, perché anch'io ho le mie preferenze, ho i miei gusti, però ritengo che sia necessario, soprattutto lavorando con enti pubblici, presentare il lavoro di chiunque lo faccia professionalmente, che utilizzi un linguaggio o una poetica diverso, questo non mi interessa. Sei orizzontale dunque anche tu. Orizzontale è in conflitto con te stesso, come tutti gli artisti in fondo, no Stefano? Ah no, certo, assolutamente. No, questa cosa a me voglio dire, non ci sono tanti personaggi come te, devo dire, perché la tendenza, soprattutto qui in provincia, è proprio quella di mantenere questo aspetto molto vicino agli amici, no? Cioè crearsi una piccola tribù di artisti amici e poi esporre sempre quelli, mentre invece tu... Ma però dici una cosa interessante, perché io alcuni anni fa su questo discorso degli amici avevo creato un gruppo virtuale che si chiamava Padiglione Bologna, il quale ha avuto una breve durata, nel senso che ci sono state alcune cene, adesso non ricordo se forse sei venuto anche tu una volta dopo una registrazione, registrazione o meno della tua, del vostro programma. Sì, sì. E la mia idea era quella di cercare di raggruppare sotto una sigla, Padiglione Bologna, la maggior parte di artisti che operassero nel territorio bolognese, no? Questo per cercare, dico, artisti anche molto diversi fra di loro, per cercare di creare un nucleo che potesse dare forza a tutti i linguaggi, a tutte le ricerche, a tutte le poetiche, e creare anche delle nuove amicizie tra artisti. Alcune sono anche nate, è stato anche molto interessante vedere artisti che operavano in ambiti totalmente diversi l'uno dall'altro, trovarsi invece a creare un rapporto di amicizia, di frequentazione. E questo poteva dare, secondo me, poteva essere un momento di grande apertura per tutta l'arte, in questo caso bolognese. Poi chiaramente, sai, per me diventa sempre molto più difficile seguire e organizzare tutto, per cui anche questa idea del Padiglione Bologna è un po' ferma, un po' sospesa. Sì, anche perché ogni con tanto... il Covid non è che possiamo andare a vederci al ristorante. No, certo, purtroppo limita anche... Però devo dire che diversi artisti ancora, abbiamo un gruppo WhatsApp, si scrivono, parlano delle proprie esperienze, di quello che stanno facendo o non facendo. È comunque nato un qualcosa che magari spero un domani possa diventare una cosa di più grande, coinvolgere più artisti ancora. E la cosa interessante è proprio questa transgenerazionalità della cosa, perché effettivamente molto, molto spesso i curatori tendono ad esporre artisti della stessa, della propria generazione, mentre invece tu appunto espandi anche questa cosa, e anche questo secondo me è veramente notevole. Ti dico senz'altro, cioè questo è verissimo quello che dici. Credo di avere qualche mancanza senz'altro sugli artisti più giovani, anche se cerco di rimanere informato, però rispetto a quelli che potevano essere gli artisti degli anni 80 e 90, in questo momento ce ne sono molti di più, che utilizzano anche linguaggi lontani dalla mia formazione artistica, perché sai, i video sono nati in anni successivi a quando io ho iniziato a occuparmi di arte contemporanea, per cui sono linguaggi non sempre accessibili ai miei interessi, però questo non vuol dire che non siano di importanza anche loro, come altri strumenti, come altri linguaggi artistici. Insomma, sì, direi che l'attenzione c'è anche per una generazione più giovane che non è la mia. Certo, no, ma infatti quello è fondamentale. Anch'io obiettivamente capisco poco di quello che stanno facendo i ventenni, però assolutamente sono curioso e mi interessa. Certo. Li vado a intervistare al Mambo quando posso, e eccetera, eccetera, eccetera. Ma non siamo tutti a fare così, insomma. Ma no, non è... per dirti, guarda, a proposito, visto che hai citato il Mambo e gli artisti, immagino quelli del Forno del Pane, nell'ultima mostra che stiamo ospitando in assenza, c'è anche una delle artiste c'è Massiel, certo, è la più giovane, direi, delle artiste che siamo riusciti ad invitare, e sono stato molto contento, ecco, perché il suo lavoro, vicino a lavori di artisti che hanno magari già 80 anni, per cui con una carriera di 60 anni alle spalle, confrontarsi con un artista di 20 anni è molto interessante. Stiamo parlando di Massiel Lesa, che Stefano tu hai intervistato tra i Nuovo Forno Panisti. È stata la prima, perché era la più giovane, e siccome appunto lei era la tredicesima, era l'ultima a essere stata chiamata, eccetera eccetera, ho voluto in maniera un po' cristiana, ho voluto fare che l'ultima fosse la prima, per cui l'ho intervistata per prima. E quindi first and not least questa volta. Esattamente. Fantastico. Invece io volevo chiederti, Sandro, perché guardando, io sono andata, c'è un sito, magari se lo vogliamo ricordare, no? dove ci si può documentare su quella che è l'attività che tu stai facendo per l'assemblea, no? Perché c'è anche un archivio online, mi sembra di ricordare, se non sbaglio, con i profili e le opere che sono state donate o acquisite dall'Assemblea Legislativa. Ci sono anche i PDF di tutte le mostre, se non sbaglio. Certo, esatto, sì. Nel sito dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna si possono trovare sia tutte le opere che fanno parte della collezione permanente, ad esclusione delle ultime, direi più o meno 10, che andranno in catalogo a breve, e i video e le immagini di tutte le mostre fatte dal, direi da, dal 2015-2016 ad oggi. Ecco, in queste io non ho ritrovato, correggimi se è una mia svista, un artista che non vive più a Bologna, ma ha vissuto e prodotto a Bologna per la gran parte del proprio percorso, che è Anna Valeria Borsari. Tu la conosci perché è stata lei, insieme a Riccardo Cannoni, sono i miei genitori artistici in qualche senso, ma così per affinità poetica in qualche modo. Ma guarda, io e Valeria ci conosciamo benissimo, potrei raccontarti due piccole cose su Valeria molto divertenti secondo me. Noi siamo amici dagli anni 70, io frequentavo la facoltà di lettere, lei era docente di, in questo momento mi sfugge, di filologia, mi sembra, filologia, esatto, romanza, sì. Qualcosa di simile. Esatto, bravissima, filologia romanza. E conoscendoci già, io sono andato, sai, prima volta l'esame forse in maniera un po' superficiale, lei mi ha mandato di ritorno dicendo no. Sono andato la seconda volta un po' più preparato, mi ha detto di nuovo di no. La terza volta sono andato ed ero preparato e mi ha detto di no. E io ho implorato un 18, visto che c'era una volta di no. Dopodiché ho cambiato facoltà, da lettere sono passato al dance, no, perché proprio filologia romanza, ho detto no, non si può più. Ma con Valeria abbiamo avuto un rapporto, abbiamo avuto una galleria per un breve tempo assieme, che si chiamava Percorso Vita, in via Paradiso, pochi la ricorderanno. Bellissimo, Percorso Vita in via Paradiso, mi sembra. Sì. Anna Valeria Borsari, adesso non voglio rivelare, ma tanto non vivendo più qui, però lei ha sempre scelto degli indirizzi di abitazione fantastici. A Bologna, forse posso dirlo perché non ci abita più, abitava in via Bocca di Lupo, cioè che per un artista è veramente incredibile. Ma anche a Milano, sai come si chiama? Lo so, adesso non lo volevo dire per, esatto, non rivelare il suo, certo, indirizzo. Sempre un nome di un artista, no? Certo, tutti a stalkerare Anna Valeria Borsari adesso. Stalkerare Anna Valeria Borsari, si vedrà infortunata da un drappello sotto casa. No, ti dico, poi con Valeria, a parte queste esperienze qua, l'ho invitata ad una mostra due o tre anni fa, adesso non ricordo bene, dedicata agli anni 80 a Bologna. Era una mostra che ripercorreva un po' tutte le varie situazioni per cui le varie poetiche che si sono sviluppate e si sono aperte a Bologna negli anni 80, per cui Valeria Borsari non poteva non esserci. È stata una figura molto importante nella ricerca artistica, direi proprio nazionale assolutamente, è, ecco, stata una delle prime artiste che hanno realizzato in Italia opere di land art, una delle prime, credo proprio la prima, con Donna, Isola e Ponte. Sì, prima ancora credo in Piazza Maggiore con quella performance fatta con Madonna di Monete, esatto, Cereali, che, esatto, è una delle opere di, l'abbiamo ricordata credo qualche puntata fa, non mi ricordo se era qui su Coxo o se era nelle nostre conversazioni private, Stefano, perché confondiamo, forse era rifatta un post di Luca Rossi, scusa, perché Luca Rossi se la prendeva con l'arte pubblica, io ho ricordato proprio come un'opera di estrema efficacia, simbolica anche, proprio questa di Anna Valeria. Siccome il nostro tempo sta per finire, volevo chiedere a Sandro se aveva qualcos'altro che voleva aggiungere a tutto quanto, perché veramente siamo in chiusura di programma. Sai, le cose credo che ce ne siamo dette tante altre forse si potrebbero raccontare. Posso dire che ieri ho avuto una notizia che dico in anteprima in questo momento. Attualmente, fantastico, in regione ci sono due mostre, una dedicata a Lidia Puglioli, è un omaggio a quest'artista scomparsa nel 2014 che ha operato nella seconda metà del Novecento, figura particolare ma secondo me molto significativa per l'arte a Bologna. L'altra mostra a cui avevo accennato prima, che ha coinvolto 28 artiste e purtroppo in questo momento non è stato possibile visitarla, verrà riproposta in luglio ampliando il numero delle artiste invitate, perché andremo ad utilizzare degli spazi espositivi che in questo momento non sono disponibili. Fantastico, per cui non tutti i mali vengono per nuocere, insomma. No, io sono molto contento, anche perché spero che questo permetta e mi permetta di conoscere, di portare a conoscenza del pubblico altre artiste che in questo momento non erano presenti in mostra. Fantastico, io ti ringrazio tantissimo e naturalmente voi proprio. E naturalmente invitiamo tutti a troverete sul nostro blog www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link nodali per andare a vedere il lavoro curatoriale di Sandro Malossini. Grazie, grazie Chiara, grazie Stefano. Grazie a te. Look out for love, tree loom. Look out for love, tree loom. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Love a tree loom. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. If you saw it coming at you,